Ieri sì, da giovane il gusto della vita io lo bruciavo in me. O ieri sì, quando ero giovane, perché la fiamma trema un po', ma non si spegne mai. Vivevo tutti i sogni che il cuore suggeriva, avevo dei castelli che adesso non ho più. La notte poi cercavo il sole intorno a me e non vedevo il tempo consumarsi con me. Ieri sì, da giovane cantavo le canzoni più facili per me e nelle mie mani io credevo che ci fosse già il filo dell'eternità. Io non chiedevo mai agli altri intorno a me qual è la verità. La vita che cos'è? Credevo nelle cose che dicevo io, pensavo solo a me e a tutto il resto no. Ieri sì, da giovane, la luce di ogni giorno portava una pazzia, la forza dell'età riempiva i giorni miei e non vedevo mai il vuoto che c'è in lei. I giochi dell'amore io li ho giocati tutti, ho fatto dell'orgoglio la prima mia virtù. Gli amici sono andati, non torneranno più. La mia commedia ormai da solo finirò. Ho ancora una canzone, ma non la canterò. E il gusto della vita non lo ritroverò. È il tempo di pagare gli errori miei di ieri, da giovane.